Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciotto e sette minuti, inizia una puntata particolare di Focus Economia per fare il punto di questa giornata economico-finanziaria nel giorno del primo maggio, chiaramente, ma dichiarazioni vi sono state, come già ricordavano i nostri GR, anche da parte del ministro Fornero, oltre che da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ma faremo anche il punto con molti italiani che immagino stiano rientrando da un ponte non bellissimo da un punto di vista meteorologico. Dicevo, faremo anche il punto su quello che è successo ieri sera, e cioè la tanto attesa spending review. Devo dire, lo dico subito, che le scelte fatte dal governo Monti sono scelte, a mio avviso, di alto profilo, non solo chiaramente la figura di Enrico Bondi, già più volte ricordata, ma anche quella di Francesco Giavazzi, nostro ospite molte volte, economista alla Bocconi, e di Giuliano Amato, che comunque, diciamo, ricordiamolo, i governi Ciampidini e Amato furono quelli che nel 92, dal 92 in poi, rimisero i conti in ordine nel nostro paese con manovre pesantissime. Ricorderete anche il prelievo effettuato proprio da Giuliano Amato sui conti correnti, poi ridato. Ma insomma, c'è poco da obiettare, a mio avviso, su queste nomine. Il vero punto sarà capire che cosa poi porteranno, e soprattutto a che cosa porterà l'attività di Bondi. Devo dire che l'indicazione di Giard di 4 miliardi e 2, che è l'indicazione anche del governo per il 2012, è un po' pochino a nostro avviso. 790 miliardi sono quanto spendiamo di spesa pubblica ogni anno, ma soprattutto 132 sono per beni e servizi. Ieri il professor Ricolfi, che oggi sarà di nuovo ospite, ricordava che in realtà la spesa per beni e servizi non è quella su cui concentrarsi. Pesano di più le voci che, anzi, delle volte la cattiva amministrazione fa sì che si spenda poco per acquisire beni e servizi, e invece si mantengano alte spese per un numero eccessivo di dipendenti, spesso in sovrapposizione e comunque pletorico. Interessante, lo faremo ascoltare, anzi io partirei proprio da quello, doppio scambio di battute sul compenso a Enrico Bondi. Perché? Perché a mio avviso il cambio di passo si vede anche da questi gesti. Più volte l'abbiamo detto, abbiamo molto apprezzato che il governo abbia ridotto dell'80% le spese per i voli aerei, che abbia uno stile decisamente più sobrio del governo precedente. È inutile far polemica di carattere politico, ma tant'è. E devo dire che anche questo, per chi se lo fosse perso, lo facciamo riascoltare, questo scambio di battute in cui il Presidente del Consiglio Monti ha detto: stiamo cercando di convincere il neo commissario Bondi ad accettare lo stipendio. Il compenso lordo per dirigente previsto in queste funzioni è di 150.000 euro lordi. Bondi non lo vuole, noi puntiamo comunque come governo a dargli un rimborso spese. Mi sembra che comunque siano segnali da apprezzare. Sentiamo questo passaggio ieri in conferenza stampa, ieri in serata in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. I professori in ordine alfabetico Amato e Giavazzi svolgono questa attività che il governo ha richiesto loro a titolo gratuito, ed è un incarico per noi di grande importanza, credo di impegno non comparabile per estensione nel tempo e per intensità per settimana, per così dire, a quello che abbiamo chiesto al dottor Bondi, con il quale è in corso un negoziato difficile per noi, perché il dottor Bondi rifiuta qualsiasi tipo di remunerazione e noi speriamo di riuscire almeno a imporgli il rimborso delle spese di fatto, ma queste cose sono troppo importanti per essere nelle mie mani, sono in quelle esperte del presidente Catricalà. Visto una retribuzione che non deve superare quella del dirigente generale non capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, detta in soldoni all'ordo 150.000 euro. Siamo in trattative con il dottor Bondi perché lui aveva chiesto solo il rimborso spese, ma per una questione di semplicità a noi conviene dare questa retribuzione, anche perché la sua non è un'attività di tipo di, non è un'attività di studio, ma è un'attività gestionale, e quindi preferiamo poterlo pagare. Naturalmente è un braccio di ferro, noi nel decreto legge metteremo questa cifra massima, poi vediamo come ne veniamo fuori dalla lotta con il dottor Bondi. Non ce l'ho io. L'ultima battuta, vincerò io, era la voce di Enrico Bondi. Io trovo comunque educativo che il governo cerchi di imporre uno stipendio a Enrico Bondi, magari fossero tutti così i funzionari di Stato. Sentiamo però la voce anche di Enrico Bondi, che ha detto insomma ieri, Enrico Bondi è il grande risanatore della Montedison, il grandissimo risanatore di Parmalat, ripeto, un profilo di altissimo rilievo, che ha detto: ripagherò la fiducia del governo con azioni concrete. Io prima di tutto devo essere io a ringraziare, no? Ho avuto una grandissima apertura di credito che io devo ripagare, fiducia che io devo ripagare con le azioni. Gli strumenti non mancano, cercherò di essere incisivo. Che altro devo dire? L'altra cosa che io devo apprezzare è che sono stato cooptato in una struttura, voi la conoscete, avete visto quello che ha fatto, che io ritengo sia la struttura vincente per il risanamento del Paese. Più che dirvi che cercherò di cominciare a lavorare presto e fare il mio meglio, ma non riesco a dirvi altro. Vi ringrazio. E intanto ci ha raggiunto in collegamento il professor Luca Ricolfi, con cui ieri avevamo iniziato un ragionamento sulla possibilità, secondo lui è un'utopia, di tagliare veramente gli sprechi e quindi i costi della pubblica amministrazione. Buonasera professor Ricolfi. Buonasera. È contento di Bondi, possiamo sì. dire? Insomma. Sono contento di tutti e tre. Di tutti e tre, sì, stavo per dire, cioè, i tre profili usciti, Amato, Giavazzi e Bondi. Sono ottimi. Mi hanno molto confortato questa scelta di queste tre persone. Sì, devo dire che dopo settimane in cui anche noi non abbiamo risparmiato critiche al governo, il tema degli esodati e il modo in cui è stato gestito, ma il silenzio sulla fase 2. E anche le proiezioni un po' modeste, a mio avviso, del ministro Giarda sui risparmi possibili. Qui possiamo dire che 4 miliardi e 2 sono poca cosa ancora? Ma guardi, bisogna vedere quanto tempo si dà alle amministrazioni per riorganizzarsi. Io penso un po' quello che diceva Muraro oggi in un'intervista, che Muraro è stato il commissario, il presidente della commissione che si occupava di sprechi durante il periodo di Prodi e Padoa-Schioppa. E cioè, se si vogliono fare i tagli troppo di corsa perché c'è bisogno di far cassa in pochi mesi, si può anche rischiare di far aumentare la spesa, perché non si ha la possibilità di riorganizzarsi. Quindi secondo me quello che è molto importante è dare degli obiettivi ampi, secondo me più di 4 miliardi all'anno, però dando alle amministrazioni centrali e locali, perché ci sono anche i ministeri di mezzo, non solo gli enti locali, dando un orizzonte di tempo e degli strumenti che permettano una riorganizzazione ordinata, pianificata e soprattutto permanente. Perché inutile che noi, l'esempio che faceva Muraro era interessante, lui diceva abbiamo bloccato le assunzioni nella pubblica amministrazione, questo ha fatto fare un sacco di risparmi, dopodiché le amministrazioni sono ricorse ai precari, la cooperativa, i cococò, eccetera, eccetera, e dopo qualche anno ce li siamo trovati da dover assumere, perché intanto li avevamo utilizzati. Ecco, questi sono gli effetti. Sì. A me è capitato anche nell'università un meccanismo del genere, cioè ci avvisavano che se non spendevamo in fretta i fondi il ministero se li riprendeva, dopodiché la gente ha cominciato a spendere i fondi di ricerca male. Che aveva per comprare qualsiasi cosa, anche inutile, pur di non farsi sottrarre i fondi. Ecco, questi sono gli errori dell'aver fretta. Sì, devo dire che anche il responsabile di Bravo Solution, che è quell'azienda italiana che sta facendo la spending review per il governo britannico, cioè sta andando a vedere i vari capitoli di spesa fornendogli software in primo luogo, ma anche la consulenza, diceva in un'intervista di 2 settimane fa: attenzione, perché la cosa importante non è solo l'ammontare dei tagli, ma che siano strutturali, perché sennò se tu tagli un anno, due anni, tre anni, poi come è successo dal 96 in poi, professor Ricolfi, se andiamo a vedere la curva della spesa pubblica, torna a salire a fine anni 90 e poi riparte in tutti gli anni 2000 dopo i tagli fatti. Cioè, l'importante è che non possono essere riaperte queste voci di spesa. Sulla necessità che i tagli non siano indiscriminati, è intervenuto oggi anche il Presidente della Repubblica Napolitano in un discorso al Quirinale in occasione del 1° maggio. Per l'insieme della politica di bilancio e dell'azione di sostegno allo sviluppo da portare avanti in questa fase in Italia vale la stessa chiave della qualità della spesa. E qui l'ispirazione della spending review lanciata proprio ieri dal governo. Un contenimento non più indiscriminato ma selettivo della spesa pubblica. Una sua profonda e motivata revisione che implichi l'intervento sulle condizioni di produzione dei servizi pubblici e quindi anche su rilevanti strutture amministrative, a cominciare da quelle centrali, possono consentire allo Stato di destinare risorse a priorità trascurate se non sacrificate e obiettivamente riconoscibili e rivalutabili in rapporto ad esigenze di crescita competitiva della nostra economia. Adesso c'è il traffico e poi continueremo a ragionare con il professor Ricolfi. Devo dare un aggiornamento di borsa, perché le borse nella maggior parte dei casi sono chiuse, tranne però Londra e l'America. L'America guadagna lo 0,86%, Londra ha guadagnato l'1,30%. Vedremo se domani poi i mercati si riallineeranno a questi rialzi. L'euro a quota 1,3225. Traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni in questa puntata così, in sedicesimi del programma che inizia dalle 18. Devo dire, alcuni di voi ci hanno chiesto: ma è Giavazzi e Amato? Amato è stato, Giuliano Amato è stato incaricato di essere consigliere del governo sui partiti e sui sindacati e quindi anche sul finanziamento ai partiti, immagino. E invece Francesco Giavazzi è il consigliere del governo sulle imprese, cioè sugli incentivi che vengono dati, i miliardi che vengono dati ogni anno alle imprese. La reazione dei sindacati, visto che oggi si festeggia il 1° maggio, devo dire, mi ha lasciato un po' perplesso, perché Susanna Camusso, leader della CGIL, dice: attenzione, adesso il governo trovi anche un tecnico per la patrimoniale. E vabbè. Ma soprattutto il leader della CIS, Bonanni, dice: attenzione, è un governo di tecnici, siamo al subappalto delle responsabilità, i tecnici interpellano altri tecnici. Non capisco la critica, qual è il subappalto delle responsabilità? Con la classe politica che sta cercando di uscire dal guano in cui è finita, ma ben vengono i nomi di Giavazzi e Bondi. Cioè, cosa chiediamo? Al tacchino di anticipare il Natale? Cioè alla classe politica di farsi le riforme che non è riuscita a fare in questi anni, quando aveva 100 deputati di maggioranza, la maggioranza aveva 100 deputati di scarto? Ma comunque, adesso Mario Monti che commenta sia la decisione improvvida di levare l'ICI quando non si poteva fare, e ricorda però, attenzione, sentiamo il passaggio sull'ICI, poi anche gli altri due passaggi a nostro avviso cruciali della conferenza stampa di ieri. Mario Monti sull'ICI. Se oggi c'è l'IMU, bisogna accettare l'amara verità che per 3 anni si è abolita l'ICI sulla prima casa senza valutarne le conseguenze. L'ICI non poteva né doveva essere abolita in una condizione di finanza pubblica estremamente precaria e quando non si voleva riconoscere che l'Italia non cresceva come gli altri paesi della zona euro. Oggi tutti hanno scoperto, compresi i responsabili delle mancate decisioni di politica economica di allora, che in Italia ci sono troppe tasse e crescita troppo bassa. Condivido pienamente. Beh, questo, professor Ricolfi, è nello stile di Monti una bacchettata a Giulio Tremonti ieri sul Corriere della Sera. Ci siamo su questo, no? Nel senso che lei l'ha vista l'intervista di Tremonti ieri sul Corriere? No, veramente non l'abbiamo ricordata, insomma. È un Tremonti che c'è una manovra fatta di troppe tasse, bisogna passare le tasse sui beni e non sul lavoro, che io capisco come patrimoniale, ma insomma è chiaro il riferimento a chi, ministro dell'economia allora, Giulio Tremonti, autorizzò e appoggiò il fatto di aver levato l'ICI e adesso riconosce che ci sono troppe tasse, ma nulla ha fatto in questi 3 anni. Insomma, il riferimento è molto molto chiaro a me, perlomeno che l'intervista di ieri di Tremonti sul Corriere l'ho letta. Devo dire, nulla da obiettare sui contenuti, ma il ministro non, l'ex ministro non può far finta di non aver governato 3 anni questa volta e 5 anni nel governo Berlusconi precedente, perché sennò siamo tutti capaci a fare gli osservatori di ONU estranei a quello che è successo. Comunque Mario Monti sulla spesa ridotta di 4 miliardi e 2 che può evitare l'aumento dell'IVA, anche se poi ha precisato, sapete che a ottobre il governo si è riservato di poter portare l'IVA da 21 al 23%, anche se poi ha detto Monti non è scongiurato però questo aumento. Nell'attuale situazione economica, il Governo ha ritenuto necessario un intervento volto alla riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo per l'anno 2012 di 4,2 miliardi di euro, al quale tutte le amministrazioni pubbliche devono concorrere. Per darvi un'idea, questo importo potrebbe servire, per esempio, a evitare l'aumento di 2 punti dell'IVA previsto per gli ultimi 3 mesi di quest'anno. Non è scongiurato l'aumento dell'IVA di 2 punti a ottobre e speriamo di avere, confidiamo di avere, credo che avremo dall'esercizio di revisione della spesa benefici sufficienti per consentire operazioni come quella che corrisponderebbe per ammontare a evitare per 3 mesi l'aumento dei 2 punti dell'IVA. Allora, professor Ricolfi, lei ieri ci stava dicendo ci credo poco che si possa ridurre la spesa pubblica, per quanto anche lei ha apprezzato i nomi che sono emersi, perché se mi rifà il ragionamento che poi era il pezzo del suo commento ieri sulla stampa, perché significherebbe tagliare in stragrande maggioranza al sud e molto poco al nord, dove molto spesso le amministrazioni hanno già tagliato il possibile. Se mi aggiunge anche un commento al federalismo fiscale che ho visto totalmente per ora accantonato mentre introduceva il principio della spesa standard, cioè una sacca di plasma deve costare più o meno lo stesso che sia in Val d'Aosta o a Reggio Calabria, eliminando il principio della spesa storica che avvantaggia chi ha speso peggio e di più. Guardi, io sono dell'idea che il federalismo fiscale era un'ottima idea, ma era già ampiamente stato abbandonato negli ultimi anni dal governo precedente, perché nei decreti delegati di cui si è parlato, nei dispositivi effettivi che erano stati messi a punto, un meccanismo di differenziazione degli obiettivi di risparmio non c'era. Quindi non è che prima c'era un governo federalista e adesso Monti guida un governo che del federalismo non si interessa. Il federalismo non c'è mai stato negli ultimi anni. Il caposaldo del federalismo è che ci deve essere un nesso fra quante tasse un territorio paga e quanto può permettersi di spendere. Questa cosa non era prevista, era prevista solo nei discorsi retorici, cioè un meccanismo di governo della spesa standard non è mai stato messo a punto, perché tutto il lavoro tecnico che avrebbe dovuto essere stato fatto in tutti questi anni non era pronto. Io me ne sono occupato fino a un anno e mezzo fa, poi mi sono veramente stancato di seguire una strada che non portava da nessuna parte. Non è mai stato messo a punto questo meccanismo di governo della spesa pubblica in base ai costi standard, ma soprattutto non è mai stato detto in modo chiaro e implementato in norme precise che se un territorio spreca il 30% e un altro spreca il 10%, i risparmi che deve fare il territorio che spreca il 30 devono essere il triplo dei risparmi del territorio che spreca il 10. Ecco, questo è il nucleo del federalismo, e questo nucleo non c'era nella legge precedente, non mi sembra che ci sia in nessuna dichiarazione dell'attuale governo. Quindi io penso che andremo verso il solito meccanismo per cui si cerca di tassare dove si può e si cerca di risparmiare dove si può, e purtroppo questo colpisce sempre i territori più efficienti o che hanno questo è l'assurdo fiscale. Lo dico senza nessuna polemica con le regioni del sud, però l'assurdo è proprio questo, che poi alla fin fine, quanto lei ricordava anche ieri, se tu dovessi andare a ridurre la spesa veramente dovresti fare tagli intorno al 400% in alcune amministrazioni del sud e tagli quasi pari a zero nell'amministrazione del nord. Professore Colfi, io la ringrazio anche perché era il 1° maggio, vorrei chiudere questa puntata breve con il ricordo però di un operaio romeno, Vasile Copil, 51 anni, è morto oggi, è caduto dall'impalcatura al terzo piano nel giorno della festa del lavoro, stava lavorando infatti in un cantiere a Rocca di Cambio in provincia dell'Aquila. Noi torniamo domani dalle 17 in poi e torna domani anche la lettura delle vostre lettere all'indirizzo disperatimai@radio24.it. Intanto da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.